Merchan. Pezzo che passerà mai in radio. Dice che si vuole prendere cura di me. Quello come salvo non fai salvo. Io sono in cura perché sono raffreddai, sono trattai, tra superficie. Nessuno quello vorrei, quello vorrei, fuori in mano. Sdomano come sdomano, come può fare, può cavare. Se non mezzo, se porto, se porto. Vogliono un morto, io sto puto, io sto barbo, io sparo con la vita. Sono un malordo, sono un malordo. Un uomo morto, un rich, che vedrà la mia vita, la mia vita. Io fare rap, io fare rap, sono un salto, salto. Lui sulla traccia, una traccia, un down. Neanche una rima, tu di capelberga. Faccio storto, faccio storto. Non mi guarisco, c'è recesso, c'è recesso. Lo atto, me lo atto, me lo atto. Fetti asso, fetti asso, il mio micro. Se te lo passi, se te lo passi un altro, un altro. Non sei un artista, non torni a lavorare, lavorare. Ogni metro nella mia faccia, la mia faccia su un giornale. Giornale, con cui puoi pegliare, pegliare, pegliare, pericare, creare dell'errore. Io ti mando a tirare il mare, a storie di merda, di merda, come le mie storie, storie. Vorresti pure fare mio padre, mio padre. Ma prendo insieme grande, come vado a pigliare, vado a pigliare, da mostro gli altri. Tu ascolta Romè, ascolta Romè, pensi per chi non ci racconta il dolore. E se ne fotte, se ne fotte, ma vorrebbe spararsi, spararsi, spararsi, spararsi, spararsi, spararsi. Io le mani, io le mani dall'oro, merda, la merda, sappi che la mia piena, mia dieta, fare, dovresti almeno, per cui sperare, io sono culo, io sono mister, nessuno, ma ti faccio su e fammi su e fammi ti fumo, la mia roba è, la mia roba è, la mia roba è, la mia roba è, io sono un, flow, puttane del potere, del potere, meno di voto, di uno tanto sentare, sentare, o lascia tra faccia, faccio, rimane stare a guardare, sono là, sinestesia tra, un picciotto delle male, un down, è un genio assoluto, vuoi vestire, vuoi vestire, mi lascio, all'asciutto, ti mangio, prosciutto, prosciutto, lascio, all'asciutto, questa casa, questa trama, potrei diventare soltanto inferno, inferno, tutto, zitto, da brutto, che ho visto, che ho visto, la mia pelle, sempre lo devo, mie palle, pensare a te, sempre te, sempre te, sempre la mia roba, la mia roba, sono io, sono chi ha talento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, sono il tuo tormento, torno a lavorare, cane, cane, fuori le legge, allora avere anche le palle, le palle di fiamma in faccia. Le palle, le palle di virgola in faccia.